Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ecco, questo qua va scritto e memorizzato. Nel business si parla per vincere, punto. È diverso perché la comunicazione sociale prevalentemente serve per essere capiti. Qua si parla per vincere. Non c'è un pareggio nel business, non esiste. O perdi o vinci, o vendi o non vendi. Non puoi dire, ma faccio un agreement, un accordo con il mio collega, l'altro venditore, io vendo metà del mio prodotto e lui vende l'altro. Cioè, non esiste. Allora, una cosa molto importante è che... Questa è, diciamo, una sorta di corso per venditore, dove uno spiega ai suoi colleghi come si fa a vendere porta a porta. Sembra qualcosa di un po' antico, la vendita porta a porta. Premetto, non è una trasmissione di servizio, quello è l'ottimo lavoro che fa Deborah Rosciani. È un discorso un po' più vasto, è basato sui comportamenti, sulle opportunità, su quella che può essere vista anche come una sorta di problema sociale. A me è capitato qualcosa giorni fa e lo dico esattamente come mi è capitato, nei termini come mi è capitata, e la pongo all'attenzione del pubblico. Senza... Vivo in una casa abitata molto da persone anziane, soprattutto persone anziane, lì ho, diciamo, ho il mio studio dove lavoro. Mi capita spessissimo, soprattutto il pomeriggio, che suona il campanello, non c'è portiere, mi rispondo al campanello, non cito le aziende, non c'è bisogno, ma mi chiamano persone a nome di società che di solito gestiscono l'energia, dicendo siamo di questo, siamo di quell'altro, dobbiamo vedere. I primi tempi non avevo difficoltà, quando ho capito che era non apro più, ma li vedo comunque sparpagliati il pomeriggio per il mio palazzo. Sono signori, ragazzi, ma anche signori che si presentano bene, hanno sempre un badge al collo, dove molte volte ci sono dei simboli molto noti che sono relativi ad aziende che producono energia, vendono energia, hanno una grande cartella in mano piena di fogli, foglietti, foglini, hanno un tablet, suonano alle porte. Io sento, perché siccome le pareti sono fine, sempre la stessa signora al mio pianerotto: non mi serve niente, ma no signora, ci faccia vedere le bollette, ci faccia vedere un attimo, perché sai, è una grande occasione. Così l'altro giorno, l'ennesima volta, me ne sono beccati io un gruppettino proprio d'impatto, mentre stavo uscendo di casa, ero piuttosto distratto, mi sono fermato un attimo, dice no, ma noi siamo quelli veri, dovrebbe farci vedere un attimo perché dobbiamo vedere i contatori, non so, mi hanno impapocchiato qualcosa e distrattamente ho aperto un attimo la porta di casa. Uno ha detto posso entrare? No, nessun problema. Quando mi ha detto senti, mi fai del contatore? Contatore di che? Dico non c'ho contatore in casa. Allora le ultime tre bollette. Ho detto quali bollette, scusi? Se lei è di questa azienda sa benissimo che le bollette me le paga la banca, non ho mai preso in mano una bolletta. No, perché adesso come si fa? È un problema. A quel momento mi si è acceso il lume, l'ho mandato a quel paese, l'ho fatto uscire di casa. Siccome insistevano tutti e tre sulla loro veridicità, e io insistevo sul fatto che dovevano smettere di rompere le scatole alle signore del mio palazzo, perché si vedeva che chiaramente vendevano qualcosa che non era assolutamente un servizio per le signore, e poi sono lamentate via dicendo. Alla fine ho detto io chiamo il 113 se insistete. Ah, lo chiami, vogliamo vedere. Ho chiamato il 113, a tempo che veniva, devo dire, sono venuti puntualissimi, è venuta nel 10 minuti la volante, hanno preso la fuga e non si sono più visti, con tutti i loro badge, con i loro tablet, con i loro fogli. Mi fa pensare dietro questa attività ci sia qualcosa di particolarmente, se non oscuro, di poco chiaro. Gli agenti sono venuti gentilmente, hanno preso un nome, mi hanno detto che se subivo qualcosa che assomigliasse comunque alla minaccia o alla la pesante richiesta di servizi non graditi, li devo richiamare. Questi comunque non sono più visti e spero non si facciano più vedere. Voglio capire due cose. Primo, se a voi è capitato, come vi siete comportati? Vi ha mai bussato persone con un badge al collo per dire vi offriamo un grande servizio? Questo è capitato qualche anno fa a Fabrizio Intonti, il collega che lavora con me. Lui ingenuamente ha accettato quello che gli hanno fatto, poi ha dovuto faticare sette camicie per retrocedere su questa cosa, perché gli arrivavano dei conguagli di migliaia di euro rispetto a quello che doveva essere un'offerta. In effetti c'era dietro qualcosa di non chiaro, bisognava leggere forse meglio il contratto o capire, questi possono farlo. Chiedo subito, visto che poi voglio andare sulle esperienze personali, vorrei chiamaste all'800240024 e mi diceste, vi è mai capitato? Come vi siete comportati? Che vi hanno detto? Buongiorno, il titolare delle fatture cercavo. Sono io? Sì, stiamo controllando le fatture per verificare se intendo. Ma io sto con non sto con è un mercato libero, hai perso i servizi sui contatori, che il gas è del quindi non ti produce il gas. Ti fa tutte le tue stimate e poi ha delle taglie sulla bolletta. Ti fa tutte le tue stimate sul contatore. Se ti porta la bolletta. Se viene una fattura luce e gas. Ho tolto il bip perché non vogliamo adesso solo chiamare le persone a rispondere sopra e sotto, loro dicono di agire veramente perché delle aziende grosse. Poi avete sentito una sorta di supercazzola spalmata per far capire il contatore, la bolletta, sapere luce e gas. Perché mi chiedi la bolletta? Perché devo darti la bolletta? Devo dargli la bolletta. Pietro Moretti, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Vicepresidente ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Conoscete questo? È un problema? È una mia esagerata reazione aver chiamato il 113, visto che questi insistevano sul fatto che era il loro diritto stare davanti al mio portone e chiedermi le bollette? Ho detto chiariamola. E come mai, secondo lei, se la sono data a gambe subito? Se la sono data a gambe perché sapevano che potevano incorrere in una denuncia, una denuncia per ad esempio violenza privata, che sostanzialmente è porre sotto pressione la controparte con anche eventuali minaccia che si manifesta col fatto che non se ne vanno. Comunque il problema che ha avuto lei è un problema che ci viene segnalato continuamente da tutte le parti d'Italia, quindi non è circoscritto a una città o l'altra, accade frequentissimamente e tant'è vero che come dire, è forse la materia insieme ai contratti di telefonia che un'associazione dei consumatori come dire, di cui si occupa più spesso. Mi dica una cosa solo per capire, ma è tutto un grande aspetto tarocco, il logo grande sulle cartelline, questo badge che mi esibivano sotto il naso, abbiamo anche il tablet, mi hanno detto, vabbè il tablet, avevano una cartellina piena di fogli, dico, ma che sono sti fogli? Ma lei che gliene importa? No, capito, gli viene con una cartella sotto braccio, tutti e tre sembravano in divisa, capito, ognuno c'aveva una cartella piena di fogli, un tablet sopra, come se fosse stato un esercito. Che dimostra tutto questo apparato? Che sono vere, sono finte? Allora, premesso che se siano, come dire, se sono o meno mandati dal gestore, questo non è possibile dirlo dal badge, perché il badge è chiaramente, come dire, il mio gestore, possibile, sulle bollette c'è scritto chiunque venga a casa sua e bussi non lo faccia entrare, perché noi l'avvertiamo prima. Quindi, ma esattamente, se ne lava è le mani. Obbligatorio per legge diciamo apporre un avviso qualche giorno prima in cui il gestore appunto annuncia che passeranno. Quando vengono a leggere i contatori, infatti questo c'è. I contatori, ma possono farlo anche per venire a vendere porta a porta. Il problema qual è? Che le compagnie, spesso le società, si come dire, commissionano dei venditori locali che essendo pagati chiaramente a commessa finiscono per truffare molto spesso i cittadini. Noi ne abbiamo viste di tutti i colori, cioè firme false, gente che è venuta dentro spacciandosi per come dire quello che viene a fare la lettura, il motivo per cui vogliono vedere il contatore, ma soprattutto le bollette, per prendere i dati e compilare il contratto. Ah, ecco, magari dicendo che guardi, no, semplicemente perché è entrata in vigore una nuova legge e dobbiamo rifirmare il contratto. Sì, ma hanno sparato in tre delle supercazzole, adesso mi ricordo, che andavano dalla nuova legge, l'adeguamento del contatore, i nuovi modelli. Si chiama truffa, sì, e per cui truffa, oltre alla minaccia che può essere, che si concretizza nel fatto che rimangono lì alla porta, quando fanno un'operazione del genere è truffa, e quindi si può benissimo chiamare le forze dell'ordine, cosa che ho fatto, non se ne vanno, ho fatto o andarci successivamente a denunciare l'accaduto. Io, era per me la prova del 9, se fossero rimasti avevano dei margini di accettabilità, che in fondo esageravo io, ma il fatto se ne siamo andati velocemente, hanno detto guardi stanno arrivando, adesso chiariamo, vediamo, mi sono girato, non c'erano più. Altre volte sono scappati per le scale quando mi sono mostrato abbastanza deciso. Ma cosa offrono queste persone? Qual è la grande offerta che fanno per cui uno dovrebbe dare il loro ascolto? Assolutamente nessuna. Moltissime indagini hanno dimostrato che sostanzialmente l'unico mercato che offre vantaggi al consumatore domestico sono i contratti in cosiddetta maggior tutela, cioè con i prezzi stabiliti dall'autorità. Siamo in una fase, diciamo, intermedia tra un vecchio monopolio e la liberalizzazione del mercato del gas, in cui esistono due mercati sostanzialmente, uno libero dove le offerte non sono chiaramente controllate dall'autorità garante, mentre quelle in maggior tutela sono ovviamente con prezzi imposti dall'autorità garante, con anche... Le leggo qualche sms arrivato, c'è un sacco di gente che gli è accaduto, qualcuno dice io ho preso il badge, l'ho fotocopiato, era un collage, normalmente abitando al piano terra faccio uscire il mio cane, a me capita la stessa cosa, ho chiesto qual era l'agenzia, hanno detto che ce l'avevano, ma è un nome reale. Ho chiamato il 112, se ne sono andati. Molti altri sono ragazzi poverini al primo lavoro, propongono un cambio fornitore, a volte ti fanno risparmiare, che problemi ci sono? Ma ci ha detto adesso Piero Moretti che in realtà non risparmi, perché se tu risparmiassi non ci sarebbe vantaggio da parte loro. Due ascoltatori, Filomena, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì. Allora c'è stata un'escalation, inizialmente erano così tutti carini, pulitini, col giacchettino stretto stretto, lo spacchino dietro la giacca, ed erano educati, adesso sono già prepotenti, allora noi... Come, se a me dà l'impressione di ex buttafuori, dico onestamente, sì, dalla adesso. Stazza fisica, dalle giacchette strette... Esatto, lo spacchettino dietro, insomma erano carini e pulitini. No, quelli di adesso, mi sembrano degli ex buttafuori, qualcuno esatto, che... Adesso, e infatti le racconto questa che è accaduta proprio ieri, allora noi come condominio, siccome abbiamo delle persone anziane che sono già state raggirate, abbiamo messo un cartello dicendo che si può accedere. Io ho chiesto oggi al mio amministratore di mettere un cartello nel previ appuntamento. Benissimo, ieri c'è scritto astenersi all'ingresso solamente su appuntamento. Allora suona, dice, e nelle luce, signora, esattamente luce questo, gas, bravo, sì. Apre il portoncino. Ho detto no, non apro nessun portoncino, non ho nessun appuntamento. Lui, signora, che appuntamento? Io vado a casa di Berlusconi senza appuntamento e adesso lei mi parla di appuntamento. Gli ho detto, bene, frequenta bella gente. Ah, così mi dice. E così dice, è un aggravante frequentare Berlusconi. Sì, vabbè, che sono fatti lo adesso, non entra, non frega Berlusconi, anche sulle bollette lo mettete. Morale, è salito. È salito, è arrivato alla porta e ha fatto il giro naturalmente, e allora io ho aperto e ho detto, guardi che chiamo i carabinieri, lei mi fa ridere, e ha naturalmente telato immediatamente, ha lasciato, però ecco, adesso sono anche piuttosto aggressivi. Quindi la notizia è questa, Filomena, quello che avevo intuito, per questo faccio una trasmissione, se no avrei lasciato alla buona Deborah il compito, che lo fa benissimo, di dare questi tipi di avvertimenti. C'è un'escalation dai poveri ragazzini al primo lavoro con le faccine pulite, ti facciano tenerezza, c'è un bimbo, ho tanta compassione per te, ma vai. Ci sono persone molto decise, molto arroganti, molto vicine alla minaccia fisica, cioè persone che, diciamo la verità, ti mettono un attimo di preoccupazione, perché sono tre, sono grossi, sono decisi e sono anche piuttosto violenti nel linguaggio. Fermiamoci un attimo, poi andiamo avanti. Melog, cronache meridiane. Ho scoperto una cosa. I più bravi negoziatori del mondo spesso non gestiscono le obiezioni. Non le gestiscono perché fanno una cosa molto più furba. Le anticipano. Anticipano le obiezioni. Cioè, sono bravi a prevenire le obiezioni. Identificate ogni possibile obiezione. Fatelo con i vostri colleghi che fanno le stesse cose che fate voi. Da manuale, i signori della mia disavventura mi hanno subito detto: noi siamo quelli veri. Perché non voleva aprirci la porta? E mi hanno messo davanti il simbolo arcinoto da decenni in Italia legato all'energia italiana. E ho detto, ah, siete quelli veri, mi fa piacere. Adesso la vediamo. Dico, vediamola. E così è andata avanti. Questa trasmissione ha lo scopo di individuare se c'è stata un'escalation di tipo antropologico nei venditori porta a porta di energia. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Veloce, veloce il suo punto di vista e la sua esperienza. Il mio punto di vista è molto semplice, alcune aziende sono valide perché ci ho lavorato, ne ho cambiate 3 o 4, alcune aziende sono, diciamo, non voglio dire la parola truffaldina, ma... ai limiti della legalità. Ai limiti, esatto. Diciamo che ci sono delle agenzie, io parlo per esperienza personale perché ci ho lavorato. Lei è andato porta a porta? Sì, sì, sono andato porta a porta. E cosa vi insegnavano? Qual era la tecnica? Aggressività e dire le peggio cose per poter entrare in casa, per poter fare... Questa è la chiave che mi legge tutto. Il vostro training era siate aggressivi, a me mi hanno quasi fatto sentire in colpa se non li facessi entrare, ero una sorta di evasore della bolletta. È l'aggressività, ti insegnano a cercare in tutte le maniere. E una volta in casa cosa dovete fare? Perché è importante entrare in casa? È perché l'importante è entrare in casa, poter vedere le bollette, poter mettere il contratto sotto il naso subito, cercare immediatamente di scrivere in maniera di cercare di fare il contratto, perché ovviamente ci può essere l'ipotesi che una persona molto anziana non firma e voi facciate uno scarabocchio e il contratto comunque va avanti? No, io grazie al cielo sono una persona onestissima e con dei sensi, ma dalla coscienza. Sua esperienza le capita che qualche suo collega diceva questa cosa poteva accadere? Poteva accadere, ma personalmente non ho mai assistito a questo. È interessante, fermo un attimo. Donato, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletti, io ho lavorato, non faccio nomi, per un notissimo brand di telefonia mobile, il problema è esattamente lo stesso. Per rispondere alla domanda che ha posto al mio predecessore, sì, molti mettono firme false, l'unica cosa che vogliono è avere i dati di quelli che sommariamente vengono chiamati codici di migrazione, che sono presenti su tutti gli operatori di energia piuttosto che di telefonia, perché con quelli si può introdurre il contratto. Una volta che io ho quello, basta, il mio obiettivo l'ho raggiunto, e questa cosa viene fatta ovviamente mai dall'operatore direttamente, perché più scaltro se ne lava le mani, commissiona alla... Fanno un lavoro sporco, compilano un database con i dati sensibili e poi... Quando emerge la truffa, il famoso gestore... Se ne lava le mani. Io sono super etico in questo, però non può essere etico dal momento in cui provvigiona le sue agenzie solo in funzione dei contratti. Sono pagati a contratto, se non fanno contratti tornano a casa senza una lira, questo è il discorso. Ma la stessa azienda è pagata così dal gestore di energia. Quindi la loro necessità è fare assolutamente contratti, se no perdono assolutamente, tempo. Assolutamente. Molto chiaro. Piero Moretti, vicepresidente ADUC, vediamo di dare una chiosa a... Ci sono elementi nuovi rispetto a quello che sapeva lei. Io l'elemento nuovo secondo me è l'escalation dell'aspetto dell'aggressività e il cambio delle persone, non più ragazzini al primo lavoro, ma gente che di lavori ne ha fatti tanti, che si distingue per la capacità di gestire l'aggressività. Sì, allora io devo dire, dalle segnalazioni che ci arrivano abbiamo entrambe le tipologie, però se mi permette di dire un paio di cosine molto rapidamente per prevenire questo problema. Ovviamente non aprire la porta quando le offerte bussano a casa, c'è qualcosa che non va. In generale non aprite la porta e, se insistono, chiamare le forze dell'ordine. 2, scegliete sempre, state molto attenti a scegliere la maggior tutela e non il libero mercato, costa il 20% in più. Non vi fidate delle offerte 30% di sconto eccetera eccetera. Per le utenze domestiche bisogna rimanere in maggior tutela. Il problema si pone perché alcune compagnie tipo Enel si chiamano Enel Energia e operano in mercato libero, e nel servizio elettrico e invece offrono la maggior tutela. Spesso i venditori arrivano, si presentano come Enel e uno non sa, ad esempio, che gli viene proposto un contratto in mercato libero piuttosto. E il mercato libero non conviene mai all'utente. Mai. A livello di utenze domestiche costa circa un 20% in più. Questa è taglia la testa al toro. Persone che vi dicono mercato libero è una vostra offerta, il guadagno per loro non è per voi, a priori. Quindi lasciate perdere. Non vale nemmeno tempo la pena di perderci tempo a parlarci. Esattamente. Però siccome sono aggressivi, siccome sono insinuanti, siccome hanno tecnica, la signora anziana o il signor anziano comunque per gentilezza li sta a sentire, e se li fa entrare in casa, gli fa vedere soltanto una bolletta, è fregato, perché prendono i codici e comunque in qualche maniera c'è il rischio che il contratto se lo veda arrivare, o sbaglio? Esatto, esattamente, quindi non fateli entrare. E l'ultima cosa, se succede, quindi sostanzialmente viene stipulato un contratto, a quel punto il modo per difendersi è scrivere una raccomandata R al gestore denunciando appunto l'inganno con cui si è, diciamo, stipulato. Guardi, ci ha provato Fabrizio Intonti, dopo mesi e mesi e mesi abbiamo dovuto risalire la china telefonando e usando, diciamo, biecamente le persone che conoscevamo negli uffici stampa, se no la sua raccomandata era rimasta lettera morta. Quindi è giusto, la procedura sarebbe quella, in un civile maniera di gestire le contrattazioni dovrebbe arrivare una risposta, ma normalmente si passa tempo, il tempo sempre a favore per la legge del 5, che chi c'è soldi vince. Quando uno ha pagato, quando uno comunque c'ha l'ingiunzione di pagamento e deve pagare, è un po' difficile che si sottragga da questo. L'importante ora è non farli entrare, non aprire il portone, e se mai vi accerchiassero, se insistono, chiamate il 112 o il 113. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie a Pietro Moretti, ho chiarito anche a me stesso molte cose.